No, ma c'è una motivazione, perché il nostro coro è un coro in movimento, quindi c'è anche una teatralità dietro tutto questo. Il concetto del nostro coro è un concetto musicale che si rifà alla musiche greca, insomma, dove con il termine musiche non si intendeva soltanto l'arte della musica, ma anche l'arte del movimento, l'arte della parola, quindi veniamo a dare un contributo teatral musicale in un certo senso, forse. Fantastico. E voi siete una ventina, appunto. E da quanto tempo esiste il coro Consonanze? Il coro Consonanze esiste dal novembre del 2012. Ok. Scusa che nel frattempo chiudo la finestra, perché altrimenti arriva. Entrano gli aerei. Esatto. Entrano gli aerei, no? Che infatti mi hanno detto che al pomeriggio ogni tanto succede che si sentono gli aerei su Radio Città Fujiko. E fra l'altro 333 180 94 94 mi dite che c'è gente che ci sta ascoltando dall'estero, per cui sperando che la diretta web su www.radiocittafugico.it funzioni, magari ci vogliono messaggiare o whatsappare. 333 180 94 94, se messaggiate dall'estero dovete fare più 39 naturalmente. Scusa, ti ho interrotto così brutalmente. Ah sì, dicevo della nascita del coro. Certo. È nato appunto nel 2012, verso la fine del 2012, è nato, ma ha avuto una gestazione piuttosto lunga, circa un paio di anni di gestazione, in cui io insieme anche a Charmin, che è qui presente, bengalese di origine, volevamo creare una realtà che contribuisse in un certo qual modo a fare un processo di integrazione basato sulla cultura, sul riconoscimento culturale e soprattutto sulla musica, perché l'integrazione è molto più semplice farla attraverso un qualcosa in cui ci si riconosce, no? Per cui la musica ha tante similitudini che possono essere appunto ben visibili da tutti, per cui ci si avvicina, ci si sente più vicini, perché ci si sente più simili. Ma dunque siete già pronti per farsi sentire una prima canzone, o preferite che metta un pezzo noi di qualcun altro? Noi siamo nati nel 2012 e siamo nati pronti. Siete pronti? Fantastico. No, in realtà bisognerebbe, dovreste introdurvi tutti, cominciamo da la vostra destra verso sinistra, dite i vostri nomi, urlando, perché tanto il microfono è lì, cioè no, senza urlare tanto, basta. Simona, Giulia, Antonella, Federica, Simona, Monia, Alice, Rosa, Roberta, Hilde, Anna, Charmin, Maria Antonietta, Irena, Maria, Lucia, Paola, Fabio, Marcello, Simone. Ah, ecco, mi sembrava, dicevo, sono tutte donne. Poi, in realtà, Maurizio. I maschi Maurizio. Si sono nascosti dietro alla porta, per cui non li vedevo. Qualcuno è seduto. No, non lo so, volevate dire anche i vostri due? No, eh? Ok. No, cioè, ho degli assistenti, al posto di Fedo ho degli assistenti io oggi. E bene, allora partite? Partiamo? Partite, dai. Partiamo senza dirvi di che cosa si tratta. Fantastico. Poi, visto che ci sentono dall'estero, riconosceranno sicuramente, esatto, il brano. Dopodiché, se vuoi, sì, questo lo puoi appoggiare lì, oppure dare a Nicola, che è il mio assistente, e è uguale. E basta, dopo quello io lo abbasso. Ciribiri bella mare moia, o du marine. Ciribiri bella mare moia, ciribiri bella mare moia, ciribiri bella mare moia, o du marine. Toni su vesla, moie brodice, pesce su rucice, moie marice. Toni su jarboli, moie brodice, pesce su rucice, moie marice. Ciribiri bella mare moia, ciribiri bella mare moia, ciribiri bella mare moia, o du marine. Ciribiri bella mare moia, ciribiri bella mare moia, ciribiri bella mare moia, o du marine. Applaudo io da solo, cosa dite? E grazie, che bello. Questo era riprenditi il microfono arancione. E se vuoi metti le cuffie, così fra l'altro senti anche che cosa ti chiedo. E abbiamo cantato. Esatto, raccontaci che cosa. Io nel frattempo ho trovato il modo di farvi sentire anche un po' di musica di sottofondo. Cosa avete cantato? Abbiamo cantato, sì, era un medley di tre brani che sono della tradizione croata e serba, quindi noi in realtà siamo nati come coro multietnico. E abbiamo continuato questa sorta di ricerca sul repertorio multietnico, essendo tanto multietnici, ecco, pure come avete sentito dai nomi, esatto. Paola, Chiara, insomma, quindi siamo poco multietnici da quel punto di vista, ma il tipo di studio c'è, e cioè, quindi siamo partiti da uno studio su quello che è il patrimonio dei canti, quindi della musica più vicina a noi, quindi della Dalmazia. Sono tre brani, questi tre brani hanno in comune il mare. Il primo brano, Ciri Viribella, è un canto in un certo senso, se vogliamo così dire, d'amore, una sorta di danza d'amore in cui si parla del mare. Il secondo, Tamo d'Aleco, invece è il canto di un soldato, pensa, il canto di un soldato della Prima Guerra Mondiale che durante la drammatica ritirata dalla Serbia, dove morirono circa 200.000 persone, si ritirarono e molti di questi andarono nell'isola di Corfù. Nell'isola di Corfù non tutti riuscirono a sopravvivere alla fatica di questi spostamenti e circa 5.000 morirono e vennero seppelliti nel mare, quindi c'è il famoso cimitero blu vicino a Corfù, quindi il nostro mare Adriatico ne prendeva e ne continua a prendere, insomma. Certo. E quindi questo è il canto di questo soldato che ricorda il suo paese nativo dal mare che però lo porta lontano, insomma. Ho capito, fantastico. E bene, adesso facciamo una pausa musicale, non con voi in questo momento, perché io ho bisogno di fare una piccola cosa tecnica che avrebbe fatto Feta se fosse stata qua con me. Adesso fra un po' la chiamo, poi scopro perché qua, perché mai non è a Coxo Spaziale con noi. Comunque sono in ottima compagnia in ogni caso, e poi ritorniamo subito da voi. Maybe I should go and live in Amsterdam, in a side street near a big canal. Spend my evenings in the Van Gogh Museum. What a dream, Van Gogh Museum. Maybe it's time to see Tangiers, a different lifestyle, some different fears. And maybe I should be in Edinburgh, in a kilt in Edinburgh, doing a modern dance. Dance. Or maybe I should get a farm in southern France, where the winds are wispy and the villagers dance. And you and I would sleep beneath the moon, moon in June, and sleep till noon. And maybe you and I could fall in love, regain the spirit that we once had. You let me hold you and touch the night that shines so bright with fright. Doing a modern dance. Doing a modern dance. Shit, maybe I could go to Yucatan, where women are women, man's man. Ah, no one's confused, ever loses place with their place in the human race. Maybe I'm not cut out for city life, the smell of exhaust, the smell of strife. Maybe you don't want to be a wife. It's not a life being a wife. Doing a modern dance. Doing a modern dance. So maybe I should go to Tanganyika, where the rivers run down mountains tall and steep. Or go to India to study chants and lose romance to a mantra's dance. I need a guru, I need some law. Explain to me the things we saw and why it always comes to this. It's all downhill after the first kiss. Maybe I should move to Rotterdam, maybe move to Amsterdam. I should move to Ireland, Italy, Spain, Afghanistan, where there is no rain. Or maybe I should just learn a modern dance, where roles are shifting, a modern dance. You never touch, you don't know who you're with this week, this month, this time of year. This week, this month, this time of year. Doing a modern dance. Don't know who you're with, modern dance. I should move to Pakistan, go to Afghanistan, dance. You don't know who you're with, dance. You don't know who you're with, modern dance. And maybe you don't want to be a wife. It's not a life being a wife. Doing a modern dance. You never touch, you don't know who you're with, dance. Dance, the roles are shifting, dance. You never touch, you don't know who you're with. La rubrica di Zino. Come il nome di un cinese. Come il nome di un cinese. Qualcuno di voi ha idea di cosa sta succedendo? Qualcun altro potrebbe obiettare che non sta succedendo nulla, mentre alcuni potrebbero essere sicuri che forse è già successo e quindi non ci si deve preoccupare. Tuttavia, ciascuno si preoccupa di tutto, anche di qualcosa che non c'è, anche se taluni sono convinti che invece è accaduto veramente e quindi preoccuparsi è quasi un dovere. Ma per tal'altri, ciò che preoccupa qualcuno è solo roba di poco conto. Buona per dare spunto per un editoriale di un settimanale a sfumature rosa o per una retrospettiva su Pasquini newyorkese. La vastità delle possibilità e degli intrecci è infinita e insondabile. Ed è per questo che ora fisso e rifisso il cucchiaino che mescola il mio caffè. Caldo come un abbraccio e amaro come la vita. Questa era, lo dico a voi che non siete mai stati qua, era una rubrica che si chiama Come il nome di un cinese ed è di questo nostro amico Zino, dico nostro perché lo possiamo dire che c'è un conflitto di interessi in questa ospitata o no? No, non lo diciamo. E così, dunque abbiamo detto, siamo di nuovo qua a Coxo Spaziale con il nostro Maurizio Mancini che ci racconta il prossimo pezzo che ci fate prima della pubblicità. Abbiamo 6 minuti. Ah beh, in 6 minuti sì, riusciamo a fare anche un concerto noi. Ottimo. Allora, il prossimo pezzo è un carnavalito, che è una danza argentina. Il carnavalito è una musica tradizionale, insomma, prima della dominazione spagnola esistevano, quindi che prende spunto un po' anche da quella che è la musica autoctona. Tu lo sai che sei un po' troppo di cultura, un po' troppo alta per la nostra trasmissione. Va bene, allora però fino a poco tempo fa non sapevo neanche pronunciarlo. Mi hanno detto che si intitola Canten Señores. Fantastico. Ecco, quindi possiamo farlo? Assolutamente. Fatelo. Canten señores cantores lo que venían cantando, canten señores cantores lo que venían cantando, y como les he llegado, alzo mi voz con recelo, y como les he llegado, alzo mi voz con recelo, naranjales, duraznales, qué bonitos carnavales, naranjales, duraznales, qué bonitos carnavales. Bomboro, bomboro, bomboro, bomboro, bomboro, bomboro, bomboro. Cuando supe tu venida, se alegraron mis oídos. Cuando supe tu venida, se alegraron mis oídos. Aunque no vengas por verme, me alegro porque has venido. Aunque no vengas por verme, me alegro porque has venido. Naranjales, duraznales, qué bonitos carnavales. Naranjales, duraznales, qué bonitos carnavales. Canten señores cantores, los que venían cantando. Canten señores cantores, los que venían cantando. Y como les he llegado, alzo mi voz con recelo. Y como les he llegado, alzo mi voz con recelo. Naranjales, duraznales, qué bonitos carnavales. Naranjales, duraznales, qué bonitos carnavales. Radio Città Fujiko e TPO in collaborazione con il Comitato Ricerche Pionieri d'Italia. I 2 minuti di Lombi hanno una durata percepita variabile. Trasfigurati che l'ignobile esperienza del sopravvivere, l'eccedenza del soprammobile ci impossibilitò a decidere il diritto poi di recedere ma spedire per poi ricevere un ritorno. Una posta celere sono celebre o sono cenere? Troppa roba sugli armadiognoli ed i mobili un po' giallognoli dell'Ikea hanno rotto i coglioni, trasfigurati per accoglierla, questa roba che chiamo proprietà, questa roba che non è sobrietà, questo amore che è un frutto acerbo e ci sto vomitando al centro. Con le scritte sui muri lievita il valore del nostro immobile, o poi scritto con l'indelebile trasfigurati che è impossibile, un ciarpame che chiama sentiment posa cenere rotto. Scartalo un tubetto schiacciato, menta dent non elimina il nostro tartaro. Pronto? Sì. Buongiorno Gina, sono io. La donna a 10 anni è come il treno, va. La donna a 22 anni è come il taxi, va. La donna a 37 anni è come il bus, va. La donna a 60 anni va è come la bici. La luce è come il buio, quando è buio non si vede. La donna è come l'uomo, anch'essa ha le gambe. Comunque ieri ho scoperto che qui tra i cinghios della bassa tra un po' sarà come stare ad Amsterdam. Hanno aperto un centro massaggi del piacere cinese, così il sindaco ha approvato la licenza. Nell'elenco delle prestazioni, massaggio scrotale, sega a due mani, ah ah ah ah. Quando ho sentito la seconda voce sono caduta dalla sedia. Già finito? E state ascoltando Coxo Spaziale. Eccoci qua, siamo tornati e mi manca qualcosa. Ecco, mi mancava questo. Dicevo, questi erano i due minuti di Lolli che salutiamo, che stasera non è riuscito ad essere con noi. Charmin, mi guardi con, con aria interrogativa. Sei tu la causa di questo coro, in realtà, mi dice Maurizio. L'angolo. Ma la causa proprio? Ma non proprio la causa, ma diciamo che sei stato uno spirito importante per questo coro, soprattutto nell'idea dell'avere un gruppo multietnico che facesse musica da tutto il mondo. Ho voluto dare una mano a Maurizio a realizzare questo coro, sì. Ma da quanto? Questo dall'inizio, giusto? Dall'inizio, da quando il coro è nato? Sì. Molto bene. E cosa mi racconti di questa esperienza? Non saprei, cioè mia figlia mi diceva che hai trovato un'altra famiglia. Ah, che bello. Quindi per me lo è così fin dalla nascita del coro. Molto bene. E perché so che Maurizio, ripasso a te, so che Charmin ti ha aiutato anche nel trovare alcune canzoni, giusto? Sì, Charmin mi ha aiutato a trovare alcune canzoni. Da dove vieni, fra l'altro? Scusa, che effettivamente in radio non lo sanno. Dal Bangladesh. Dal Bangladesh. Sì, mi ha aiutato a trovare alcune canzoni, mi ha aiutato anche tantissimo a portare avanti l'idea di creare un coro in cui diciamo l'asse portante, la particolarità è appunto quella di lavorare sul suono dei dialetti che provenienti da tutte le parti del mondo, insomma, ecco. Quindi poi attraverso questo si fa uno studio tecnico e quindi si arriva alla tecnica del timbro, si arriva a fare uno studio più approfondito, però lei mi ha aiutato molto in questo. Stiamo da ormai da un annetto preparando anche un brano in Bangla però ci è difficile, quindi sono studi certo. Molto molto lunghi che prima o poi porteremo a termine e ve lo presenteremo quando sarà quando è pronto. Io sono pronto ad invitarvi. Tu fai anche il tuo mestiere principale è quello di insegnare musica, giusto? Sì, sono un musicista, sono un chitarrista. Ah, sei un chitarrista, Ok. È direttore di coro. Direttore di coro, che è un po' il... cioè, questa è una cosa che fai soprattutto per passione, mi sbaglio? No, è diventata anche per me una mia seconda famiglia. Certo. Immagino che mia moglie mi stia ascoltando, quindi non posso dire che è la prima, ma certo. Quindi è la mia seconda famiglia, nel senso che io esco soltanto per poter... Stasera neanche io posso dire che Coxo Spaziale è la mia prima famiglia. Possiamo dirlo che possiamo dirlo, certo. tra i contralti c'è appunto i contralti, sono quelli che hanno la voce bassa, no? Sì, sono quelli che hanno la voce con un registro più basso rispetto ai soprani, cioè, la presentiamo direttamente, possiamo farla presentare. Presentiamola, non la presentiamo è già diventata Bordeaux, usa la voce soltanto per cantare, esatto, e Irena, mi sembra giusto. E quindi niente, questo tipo di studio che noi facciamo, ecco, ci siamo, l'ambizione più grande è quella appunto di fare uno studio su una lingua così lontana come quella del Bangladesh, e invece lo studio che possiamo già presentare sono quelle delle lingue che ci sono più vicine, insomma, quindi dell'area mediterranea. Per cui il brano che vi abbiamo presentato prima era un canto, il primo iniziale, mm-hmm, era un canto appunto di tradizione dalmata. Il secondo era un canto argentino, per cui spagnolo, mm-hmm, per cui ci è abbastanza vicino, e se volete vi presentiamo il terzo. Assolutamente. Mm-hmm. Allora, il terzo invece è un canto arbresh. Che non so nemmeno che cosa voglia dire. Arbresh. Tu devi rispondere, ma che ignorante. Dai, no, ti farei fare il ruolo che di solito faccio io. Aspetta, quando, che leggo. Quando così. Ok, no, veramente, io non credo di essere l'unico dei nostri ascoltatori. Anzi, salutiamo Leo da Roma che dice: siete grandiosi. Immagino che anche Leo si chiede chi siano gli Arbresh. Gli Arbresh sono una minoranza linguistica. Praticamente sono dei profughi che sono arrivati dall'Albania qui con delle barche, insomma, anche di fortuna, però qualche secolo fa, intorno al quindicesimo, la fine del quattordicesimo e l'inizio del tredicesimo secolo, l'Albania veniva occupata dagli ottomani, e quindi loro scapparono appunto dalle Albanie e si rifugiarono nelle coste italiane. Tuttora ci sono una trentina di comuni di etnia Arbresh che parlano ancora questa sorta di albanese antico, alcune sparse, la maggior parte sparse in Calabria, qualcuna in Sicilia, Basilicata, comunque in meridione, qualcuna in Puglia e qualcuna in Molise. Appunto, in Molise negli anni 50, precisamente a Porto Cannone, il paese che mi è tanto caro perché ci sono nato, a Porto Cannone negli anni 50 venne un etnomusicologo, Diego Carpitella e Mario Cirrese, e vennero a fare delle registrazioni di canti e comunque di interviste di questa particolare lingua. Noi questa sera vi cantiamo appunto Ishin Dit, cioè c'era un giorno. Tra l'altro ci sono tanti saluti da Porto Cannone, Angela, Giuseppe, Patrizia e nonna Angela. Ciao zio, dicono. Ciao, siete zio. Grandi, un saluto a mia moglie Lucia che sta cantando. Allora non posso dire che il coro è la mia seconda famiglia. Un bacio dal piccolo Nathan. Poi al coro consonante, bravi, senza firma, e c'è la mia sorellina nel coro. Quindi, non sappiamo chi, però il coro è diventato la mia terza improvvisamente famiglia. Mi erano scomparse le chat e mi sono accorto che ce n'erano 5. Molto bene, questa è, devo dire che questa è la nostra trasmissione più popolare, sicuramente. sì. Ecco, Porto Cannone non è un grande centro, conta 2500 abitanti, ha un bel nome, è un bel nome che piacerebbe anche a Marco della trasmissione. Ecco, tornando a questo canto Arbresh, è un canto che si intitola Ishin Dit ed è un canto che parla un po' di questa diaspora, no? Di questa diaspora degli albanesi dell'epoca. E in questo canto, nella prima parte del testo, c'è un rapace, un nibbio che viene da lontano e che vola su questa nuova terra, ormai diventata italiani, insomma, questi albanesi che si sono trasferiti in questa zona, e parla in Arbresh, parla con la stessa lingua, e quindi è una sorta di ricordo, ecco, il dramma della diaspora. Dopodiché il testo diventa un po' più ricco, più fiorito, e quindi parla anche d'amore. il nibbio che noi sentiremo lo faranno la parte dei, dei bassi, che faranno il nibbio che viene da lontano. Ok. E poi così come gli aerei che sentiamo dalla finestra. E c'è anche Stefano che mi dice di intervistare Alice perché ha una voce fantastica. Cosa Alice? Faccio? Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Guarda che si vergogna. Molto bene. Vabbè, allora Stefano sono io. Alice, cosa mi dici? Scherzo. Va bene, siamo pronti, andiamo? Siamo pronti. Dai. Okay. Volevo dire che all'interno di questo brano, proprio per una questione di integrazione, vi faremo faremo recitare, insomma, Charmaine è anche la poetessa del nostro del coro, per cui ci parlerà con una sua poesia e ci fantastico farà piangere un pochino. Molto bene. Buon ascolto. A te. Che ho, tutti capiscono, non sono una di qua. Persino un bambino piccolo capisce. Penso, allora sono io la sciocca? Chi ha pensato il colore non ha valore? 10 anni, soltanto 10 anni me ne sono bastati per farmi diventare ospite di casa mia. La mia terra mi vuole, il mio vento mi chiama, la mia pioggia vuole bagnarmi con le sue gocce trasparenti. Ma è la mia gente che mi fa capire quanto sono distante da loro. Forse anche la vostra terra mi vuole. Può darsi, anche il vostro vento mi chiama. Magari anche la vostra pioggia vuole bagnarmi ugualmente come la mia. Ma sono solo alcuni di voi che mi fanno capire quanto sono diversa da voi. Cerco una soluzione. Qual è meglio? Distante o diversa? Non ci arrivo. E sapete perché? Perché ho tre piante da crescere nella vostra terra, con il vostro vento, con la vostra pioggia, sperando che arrivi un giorno nel quale queste piante diventeranno alberi, proprio come i vostri. Forse saranno diversi, ma soltanto per il colore, non per altro. Aspetto un mondo arcobalenato, dove tutti i colori sono importanti, dove tutti i colori stanno in pace insieme, dove tutti i colori hanno lo stesso valore, tutti, tutti, ma proprio tutti. Cox spaziale. Yeah, bravi. L'angolo della menzione. Stavo per dire brave, poi mi proprio perché i tre bassi sono lontani, nascosti dalla porta. Allora, abbiamo anche un abbraccio forte da mamma Pina e papà Basilio, a Lucia sempre. Grandi ragazzi, andate così, questo non si sa chi sia. E poi brava mamma Antonella, la vostra musica è la più bella, da Sofia ed Irene. Poi ne abbiamo degli altri, però questo affare. Detto questo, questo jingle che avete sentito si chiama l'angolo della menzione, perché eccolo, e fa esattamente così. È fortuna che ho avuto questa fantastica idea di registrare del silenzio. Dicevo, perché appunto menzioniamo delle mostre che succedono, e questa mostra succede domani, sabato 8 aprile alle ore 18, ed è a Ferrara. Silvia Camporesi, chi è che di voi che ha fatto il liceo classico? Nessuno. Puoi rispondere con la voce. Io immaginavo, infatti. Senti, ma Italia è scritto con la AE, come si pronuncia? Italia. Grazie. Però c'è una pronuncia classica che dice si può anche fare Italia e. Ah, ecco, Italia e. No, perché sono andato su Google Translate, perché c'è il latino presente, ed effettivamente diceva proprio Italia e. Allora dico, non mi fido, chiedo a qualcuno che ha fatto il liceo classico. E Federica, giusto? No, tu devi sapere che è un miracolo che io mi ricordi i nomi. Dicevo, Silvia Camporesi, Atlas Italie, Tabula Ferrarense, 100 anni dopo Giorgio Bassani. Silvia Camporesi ha esplorato nell'arco di un anno e mezzo tutte le regioni italiane alla ricerca di paesi ed edifici abbandonati. Atlas Italia è il risultato di questa raccolta di immagini, una mappa ideale dell'Italia che sta svanendo, un atlante della dissolvenza. Si scoprono così luoghi nascosti e spesso mai svelati, magici nelle loro smagliature scrostate, pervasi da energie impalpabili. In occasione della mostra alla MLB, Maria Livia Brunelli, la Home Gallery ferrarese di fronte al Castello Estense, l'artista ha deciso di approfondire la sua esplorazione sul territorio ferrarese, sulle orme degli affascinanti luoghi descritti da Giorgio Bassani. E questo è domani alle ore 18 a Ferrara, in Corso Ercole I d'Este di Ferrara, numero 3. e il sito è www.mlbgallery.com. E fortuna che abbiamo una menzione sola, per cui non devo fare nient'altro, posso tornare al nostro coro. Eccoci qua. Eccovi qua. E anzi, posso riaprire la finestra perché per un attimo così respiriamo. Un secondo. Visto che effettivamente disturbava quando... complimenti, il pezzo è... questo era... tosto. È piaciuto? Sì. Ecco, beh, si è capito? Era il Brescia. Si è capito poco, ma però la poesia si è capita molto. La poesia si è capita molto bene, mi fa molto piacere che Charmin sia venuta qui a recitarcela. Anzi, l'applaudiamo. Che effettivamente bisogna approfittare del fatto che siete in un miliardo, per cui possiamo applaudire, e anche questa, perché poi c'è questo microfono che è fantastico. Molto bene, e come siamo messi? Siamo alle 21:51, manca abbastanza poco, per cui possiamo andare per l'ultimo pezzo. L'ultimo brano. Visto che Portocannone ci ascolta e la mia famiglia ci ascolta, quindi la saluto, e ne facciamo l'ultimo in Arbresh, come se non fosse preparato, insomma, ecco, quindi Lule lule. Fiore. Quando volete. Yeah. pazze, e dai e pazze, e dai e pazze, se per te, te, te sembra in me, te sembra in me, te sembra in me, e ti vede. E un per tia, e un per tia, e un per tia, dagli e pazze, e dagli e pazze, e dagli e pazze, e dagli e pazze, se per te, te sembra in me, te sembra in me, te sembra in me, e ti vede. Abbiamo anche un Cist e Buk Manustacci. Ciao da Celeste. Bravi tutti, volevo... Ah no, mi si è spento. Volevo fare i complimenti al coro, siete magnifici, il fotografo. Ciao Dio Maurizio, sempre Celeste. Fantastici, grazie. Io vi ringrazio davvero e mi fa molto piacere che siate venuti. Mi dispiace che abbiate dovuto sudare in questo modo, però effettivamente 20 persone dentro questa stanza probabilmente non c'erano ancora state e... c'è qualcosa che mi vuoi dire prima della fine della trasmissione? Grazie da parte mia e un grazie! A presto. Il coro consonanze dico armonia, che in danese è dico armonia. Molto bene, questa era Coxo Spaziale e poi naturalmente lascio come al solito l'ultima parola al direttore di questa radio che ci dice simpaticamente così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Summer days I hide away and wait for rain to come. Cause it turns out help will not be found within the fires below, but in making do and muddling through when you know where else to go. But then I vi ricordo che se volete unirvi al coro Consonanze, loro fanno le prove alla Meridiana di Casalecchio tutti i giovedì alle 20:45. E inoltre naturalmente trovate la loro pagina Facebook domani su www.coxospaziale.blogspot.com. My dear, don't know where I am. I've been running now so long, I'm scared. I've forgotten how to stand. And I stand alone in airport bars and gather thoughts to think that if all I had was one long road, I could drive a man to drink. But then I remember you and the way you shine like truth in all. And if you remember me, you could save me from the way I tend to be. Cause I've said I love you so many times that the words kind of die in my mouth. And I meant it each time and each beautiful woman, but somehow it never works out. But you stood apart in my callous heart and you taught me, and here's what I learned. Love is about all the changes you make and not just three small words. And then I catch myself catching your scent on someone else in a crowded space, And it takes me somewhere I cannot quite place. And then I